si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati all'appuntamento della mattinata, della tarda mattinata su Radio 24 con le piccole storie virtuose. Insomma, cerchiamo di invertire un po' il trend della settimana, di ritirarci un po' su dalla depressione, da cattive notizie. 800 24 00 24, anche questa settimana vi vogliamo in diretta. Parleremo, ve lo dico subito, anche di come può cambiare in tempi di crisi il concetto di felicità. Cosa serve, cosa non serve per essere felici? Vi racconteremo la storia di un ragazzo che ha seguito una strada sicuramente non convenzionale, che forse vi farà discutere. 800 24 00 24. Intanto un po' di notizie della settimana. Cominciamo con un'iniziativa. In questi giorni, dal 1 al 31 maggio, i portoni dei palazzi di Milano e Napoli sono tappezzati di locandine delle cartoniadi, le olimpiadi della raccolta differenziata di carta e cartone. Di che si tratta? L'iniziativa è dei comuni che l'hanno lanciata insieme al Comieco, che è il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base di cellulosa, e alle aziende di raccolta rifiuti AMSA Milano Asia a Napoli, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della raccolta differenziata. Partecipate numerosi, perché? Perché alla fine si vince un premio, il comune che vince, la zona che vince, si porta a casa dei soldini da spendere in attività per la collettività. Altra notizia viene da Bari, approfittatene amici baresi, spiagge, sconti contro la crisi, il caro benzina spaventa i gestori, e allora ecco a prendere al via la stagione estiva, tra poco, perché ancora il tempo non è granché, formule weekend, ingressi pomeridiani scontati del 40%. L'ultima notizia viene sempre dal sud, San Giovanni Vesuviano, denunci gli estorsori, ebbene non paghi le tasse per 3 anni, lo ha deciso la commissione, il commissario straordinario, il prefetto che ha commissariato San Giuseppe Vesuviano dal 2009, perché è un comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Ebbene, per 3 anni chi darà prove tangibili di collaborare nella lotta alla camorra, denunciando chi chiede il pizzo, ebbene non pagherà le tasse comunali per 3 anni. Questa è senz'altro una buona notizia. Noi aspettiamo le vostre notizie sul profilo Facebook, si può fare @radio24, anche alla mail si può fare @radio24.it. tra poco in diretta 800 24 00 24, e poi non dimenticate in settimana la nostra segreteria telefonica 828 12 12 per lasciare la vostra ricetta per salvare l'Italia. Sembra che il governo Monti sia intenzionato a andare a prendere i soldi in Svizzera, e questa è una delle ricette suggerite proprio dai nostri ascoltatori. Sono Aurelio, ho appena ascoltato quello che aveva detto un signore a proposito dei soldi che Monti non vuole prendere dalla Svizzera perché non può, e mi sembra alquanto scandaloso. Il signore l'ha detto qualche mese fa e l'hanno confermato anche dalla Germania e dalle altre parti che stanno facendo la stessa cosa. Ripeto, è scandaloso. I soldi in Svizzera che noi italiani non vogliamo tassare, probabilmente è perché sia Monti che tutti gli altri politici e anche delle classi dirigenziali hanno anche loro i soldi in Svizzera. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. No cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Cut out in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. It's been too bad, trying to sit on. Lives in a house, very big house in the country. Watching after the repeats and the permeates in the country. Abbiamo scelto questa canzone dei Blair, Country House, la casa in campagna, per parlare del nostro prossimo ospite. La pulce nell'orecchio ce l'ha messa la Col Diretti, che stima, l'associazione dei coltivatori, 3.000 giovani che si sono messi a fare una scelta di vita e anche professionale un po' particolare. Fanno i pastori, abbandonano la città per la campagna, una scelta sicuramente non convenzionale, non in linea con i canoni più moderni. In compenso però hanno un'attività tutta loro, un'attività che produce lana, latte e formaggi possibilmente biologici che vanno tanto di moda. Molti seguono le orme dei genitori, altri invece iniziano da zero e per esempio così ha fatto il nostro Davide Bortoluzzi. Buongiorno. Buongiorno. Il nostro ospite Davide Bortoluzzi, 25 anni, veneto di dove? Dell'Alpago, è una conca vicino, in provincia di Belluno, vicino alla città di Belluno, ecco. Io pensavo di trovarti Davide al pascolo, invece domenica si riposa, no, insomma. No, sono stato, adesso sto andando a mangiare qualcosa. Ah, sei stato stamattina a lavorare? Sì. Perché così infatti mi sembrava di aver capito quando ci eravamo messi d'accordo per l'intervista, insomma, quindi è un lavoro anche, si lavora 7 giorni su 7, cioè gli animali hanno bisogno di essere portati a spasso sempre. Esatto, bisogna pensare ogni giorno a loro. Com'era la giornata, il tempo intorno a te? Pioveva o bel tempo lì? Un po' piove, un po' esce il sole, tempo variabile, tempo classico, tempo primaverile. Quindi tra le varie inconvenienti c'è anche quella delle intemperie, perché insomma si spassa molto tempo. Quelli ci sono sempre, ormai l'inverno è passato, quindi... anche le intemperie che il peggio è passato, non insomma fa più paura, però è non passato, ti quante volte ti ammali durante l'inverno visto che prendi tanta pioggia, cioè, Davide, no? Ma dipende dagli anni, certi anni neanche una volta, quest'anno per esempio ormai 2 volte. Certi anni neanche, no, quindi magari è vero che insomma fa bene stare all'aria aperta e tempra il fisico. Sì, sicuramente sì, rispetto a tanti altri miei coetanei, sì, o amici mi ammalo molto meno. Io ho detto però una scelta, poi quando sì mi ammalo non ho la possibilità di stare a casa al caldo, ecco, quindi. Tu hai 25 anni, insomma non è una cosa molto comune, però abbiamo letto da questi dati della Coldiretti che insomma non siete neanche così pochi a pensare a un certo punto, cambio completamente, invece stare a casa a girarmi i pollici e cercare un lavoro che non arriva, magari fare il manager o il giornalista o chissà cosa, mi metto a fare una cosa completamente diversa. Tu non hai ereditato l'attività dai genitori, è tua. Sì, ma ultimamente magari sì, ce n'è di più, che anche con questa crisi che si mettono a fare questo lavoro. A me ha sempre attirato fin da piccolo, è sempre stata la mia passione, quindi quando ho potuto iniziare un'attività per conto mio l'ho fatto, ecco. Ma come ti è venuto in mente di buttarti su questo, insomma? Che animali hai prima di tutto tu? Pecore e un po' di capre. Ma non so da dove sinceramente questa passione mi è venuta, sin da piccolo, da quando avevo 4-5 anni mi ha sempre attirato le pecore, più che altro la transumanza, il fatto di forse di avere una vita più libera forse o fuori dagli schemi, insomma, di vivere. Cosa dicono i tuoi amici di questa tua scelta, che ormai risale a quanti anni fa? Ma che faccio questo lavoro, sì, come primo lavoro è da 4 anni ormai, sì, che faccio. E i miei amici mi conoscono da sempre, quindi sanno dei tuoi gusti, insomma, della tua particolare, della tua passione. Io ho detto una scelta non convenzionale, una scelta sicuramente che non va nei canoni, però una scelta da non sottovalutare, quella tua, come anche di altre persone che magari si mettono a coltivare la terra, perché si dirà in tempi di crisi, studiare non serve più a nulla, tutto quello che volete, però stare a casa a girarsi i pollici sicuramente è peggio. Cosa ti manca della tua vita precedente o di quello che potresti fare vivendo in città, facendo lavoro cittadino come tutti gli altri, e cosa invece non ti manca per niente di quella vita lì? Ma forse che manca è poter scegliersi un giorno di vacanza quando si vuole. Non so, non ti spetta domenica andiamo al mare o andiamo a fare un giro. Tu sei fidanzato, no? Non è che puoi farlo, ecco. Dico, tu sei fidanzato, convivo, la tua fidanzata sarà un po' sulle spine per questo. Ma niente giorni di vacanza. La mia fidanzata, anche a lei c'è la passione degli animali, poi stando con me si è appassionata anche a questo tipo di allevamento e stile di vita più che allevamento, e quindi non abbiamo grosse... Cosa invece non ti manca per niente di quella vita lì? Cioè, di cosa ti sei liberato davvero volentieri? Non so, delle code in auto, della cravatta? Sicuramente, forse di tanto stress, diciamo, di correre per arrivare in un punto, di aver sempre orari prestabiliti, di far cose stabilite, non so, a quest'ora si mangia o bisogna allora tutti di corsa per andare a mangiare code o... una vita frenetica, ecco, una vita di città che a me non manca. Vabbè che abitavo in un paesino di campagna anche prima, quindi non è che, però Davide, resta con noi ancora un secondo, facciamo una pausa per il traffico, appunto, e poi ti vogliamo chiedere come passa il suo tempo libero la domenica pomeriggio il nostro Davide Bortoluzzi, che nella vita fa il pastore. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme in compagnia del nostro Davide Bortoluzzi, 25 anni, pastore. Permettelo, dico subito, Davide, sei proprio un mito, perché alla tua età, sei giovane, hai iniziato da alcuni anni, hai fatto anche degli investimenti, è un'attività tua, non hai giorni di riposo, questa cosa ti impegna moltissimo, anche se qualcuno potrà magari ridere perché fai un lavoro particolare, è peggio per lui, perché tu ti sei dato da fare. Questa è una cosa bella, importante, secondo me, nella vita. Cosa fa la domenica pomeriggio il nostro amico Davide, che non lavora? Cinema? Come tutti? Quello che faccio il lunedì pomeriggio, il martedì pomeriggio, gli altri pomeriggi. Prego gli animali o vado al pascolo, se c'è qualcos'altro da fare, qualche lavoro urgente, comunque. Ma tutti i giorni sono uguali praticamente. Ma il tempo libero, a cosa lo dedichi? Un'uscita con la fidanzata? Il tempo libero non ne ho. Mai. Quindi perché non... alla sera finisco. L'ultimo film che hai visto al cinema? Non so. Proprio perso nella memoria. No, sì. L'ultimo concerto non se ne parla. Non se ne parla. L'ultimo aperitivo avevi 8 anni, forse. No, scherzo. Ma dopo esco con i miei amici, magari sì. Ecco, mangiarmi una pizza, fare un giro, però sempre dopo che sono stati sistemati gli animali. Quindi ecco, quando, questo sì. Quando viene buio, ecco, dopo il tramonto, ecco, poi spostarti un po' a fare. Questo volevamo sapere, insomma, cosa esatto. Fai quando non stai con gli animali, che è importante, abbiamo detto, però insomma è importante anche poi avere una vita sociale, divertirsi, riuscire a farlo certo. Con i tuoi amici e la tua fidanzata. Grazie Davide per essere stato con noi, una bella storia, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi. Grazie Davide. 800 24 00 24, vi chiediamo a voi cosa serve, cosa non vi serve per essere felici. Tra poco in diretta. Spieghiamo che cos'è questa musica. È fatta assemblando suoni che vengono da computer Mac ed è un tributo a Steve Jobs, il geniale fondatore della Apple. E poi, riprendendo il filo delle cose che ci siamo detti fino a poco fa, ci chiediamo, chissà se andare alla settimana della legalità dal 3 al 7 maggio a Benevento può rendere più felici. E allora mettiamo insieme le due cose, perché questa domanda la facciamo a Antonio Menna, giornalista e autore di Se Steve Jobs fosse nato a Napoli. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti. Prima di tutto ti chiedo proprio questo, come va lì parlare di legalità in una terra dove normalmente la legalità viene calpestata, può rendere un po' più felici? Beh, sicuramente è utile, insomma, può rendere, come dire, la terra un po' più vivibile, soprattutto se se ne parla alle giovani generazioni e se lo si fa non in termini predicatori. Credo insomma che di sermoni sulla legalità se ne sono sentiti tanti, tutto sommato è facile dire quello che è giusto e quello che è sbagliato. Quello che è un po' più complicato e che invece va fatto è provare a spiegare ai ragazzi che la legalità conviene. Conviene perché al di là del fatto di quello che è giusto e quello che è sbagliato, è utile un luogo, diciamo, dove le regole si rispettano, un luogo dove si vive meglio, dove anche le possibilità economiche sono maggiori, dove lo sviluppo è una possibilità reale, un luogo che, da cui magari è possibile anche non scappare, come invece molti sono costretti a fare. E a volte può convenire anche in termini economici, materialistici. Abbiamo letto prima una notizia, San Giuseppe Vesuviano, il commissario ha deciso che chi collabora contro il PIS, insomma contro la Camorra, non pagherà le tasse per 3 anni. A volte la legalità può avere anche un tornaconto economico. Antonio, noi in genere in questo programma cerchiamo storie che ci dimostrano che si può fare, che ci dicono si può fare. Invece il tuo romanzo, dal titolo celeberrimo, il tuo libro, Se Steve Jobs fosse nato a Napoli, è più un interrogatorio, si potrebbe fare. E insomma ci sono questi due giovani che hanno in testa un'idea meravigliosa e poi però come va a finire? Beh, il libro l'equilibrio è problematico, quindi certamente dal punto di vista dell'incoraggiamento forse può risultare un po' difficile, ma leggendolo bene non è proprio così, nel senso che è indubbio che un grande soggetto come Steve Jobs in un contesto più difficile avrebbe avuto maggiori difficoltà, però io nel libro da una parte elenco i problemi, le difficoltà su cui sarebbe inciampato, ma dall'altra costruisco anche due personaggi che sono molto napoletani, perché sono due personaggi che non si arrendono, sono due giovani, due ragazzi di 20 anni che hanno una grande energia, una grande forza, non si arrendono mai, trovano degli ostacoli, perché poi la realtà oggettiva che dobbiamo raccontare è quella delle cose che vediamo, gli ostacoli ci sono, però ci sono anche le risorse, quindi forse il lato positivo di questa storia, che è una storia non consolatoria, che mette in luce i problemi, il lato positivo è che le risorse ci sono, abbiamo un capitale umano straordinario in Italia, al sud, dobbiamo creare le condizioni perché da questo capitale possano poi uscire tutte le potenzialità che esistono. Una storia non consolatoria, come anche il tuo blog, che è molto incisivo, può sembrare a volte così un po' scorticante, non so, cinico, ma no, io direi che è molto incisivo, e però sono d'accordo con te Antonio, la buona notizia qua è che per affrontare i problemi che ci sono, la legalità per esempio da quelle parti, bisogna guardarli in faccia, è inutile far finta di nulla. A questo punto da cronista ti chiedo di raccontarci, visto che ti ha ospitato questa settimana della legalità, di cosa si è parlato in particolare, se ci sono stati degli spunti interessanti da raccontarci. Sì, abbiamo fatto un confronto all'interno di uno stabilimento industriale di Benevento che fa olio, dà lavoro a 200 ragazzi, il 95% sono del posto, e quindi io mi sono trovato paradossalmente a raccontare il mio libro, che è un libro problematico, in un luogo dove invece questi problemi li hanno affrontati. Mi è piaciuto perché ho parlato ai ragazzi e abbiamo potuto porre a questi ragazzi due esempi, quello dei protagonisti del mio libro che inciampano sulle difficoltà e quello invece degli imprenditori che erano lì e che hanno dimostrato che le difficoltà esistono, perché chiaramente non raccontiamo cose non vere, ma che quelle difficoltà si possono anche affrontare, poi il tema è questo. Esistono i problemi, li raccontiamo, ma li raccontiamo con l'obiettivo di farli conoscere, perché conoscere i problemi è il primo passo per cominciare a risolverli. Certo. E questo confronto sulla legalità poi si è allargato al destino del territorio, a quanto la legalità è importante per la crescita del territorio, e questi ragazzi hanno coltivato per un attimo la speranza di poter realizzare loro stessi anche non andando via dalle loro terre, perché queste sono terre che si stanno desertificando. I giovani, soprattutto quelli più preparati, ad un certo punto capiscono che per realizzarsi devono andare via, e questo impoverisce i territori, e invece riuscire a dare una speranza a chi vuole rimanere senza perdere il proprio sogno è importante. Va bene, grazie. Allora anche Antonio Menna, se Steve Jobs fosse nato a Napoli e la settimana della legalità tra Telese, Benevento e Montesarchio, c'è tempo credo anche fino a domani per seguire alcuni di questi appuntamenti. Adesso invece noi vogliamo parlarvi dei consigli settimanali dell'Università del Saper Fare del Movimento per la Decrescita Felice. Parliamo dei gas. Sulla questione della crescita, per crescere di più, per stimolare la crescita, nuove occasioni di crescita, la crescita. Siamo ossessionati dalla crescita economica, eppure per vivere bene non sempre serve spendere di più. Scopri insieme a noi la decrescita felice. Gas. Ci fa disperare quando arriva la bolletta. Ci fa accelerare quando siamo in moto. Ci mette in imbarazzo se siamo in ascensore. Ma adesso ci fa anche risparmiare. Il gas inteso come gruppo d'acquisto solidale. Ce ne sono sempre più in Italia, oltre un migliaio. Ed è un fenomeno in grande crescita. D'altra parte è una delle priorità dei gas, quella di espandersi all'infinito. È un gruppo di acquisto, la S di solidale, forse più da spiegare perché gruppo d'acquisto lo possono intendere credo tutti facilmente. Solidale può essere solidale con i produttori, produttori locali, quindi un chilometro zero, produttori anche lontani da noi, quindi un commercio più equo solidale. Ogni gruppo d'acquisto viene creato un po' su misura con dei principi comuni che normalmente sono quelli del biologico, dell'attenzione all'ecologia, dell'attenzione al produttore. Ogni gruppo d'acquisto, diciamo che in base alle proprie esigenze e alle proprie conoscenze si crea. Ci sono in termini normalmente di qualità sempre, e molto spesso anche di portafoglio. Poi la S di solidale chiaramente va a creare un certo tipo di relazione anche col produttore. Siamo un gruppo che inizia come gruppo di amici, quindi quattro famiglie, e quindi ognuno di noi era referente di un solo prodotto, quindi si compravano 4-5 cose, diciamo prodotti non troppo deperibili, quindi che fosse anche semplice la logistica. Abbiamo iniziato col parmigiano, diciamo cose più semplici, e mano a mano abbiamo inserito altri prodotti. Adesso ormai abbiamo di tutto, anche il pesce, la carne, le uova. Ci vediamo molto poco rispetto a quello che probabilmente fanno tanti altri gruppi di acquisto. Ci vediamo solo ogni due mesi c'è una riunione, vengono confermati alcuni produttori, magari altri vengono sensibilizzati. Ad esempio, da pochissimo abbiamo inserito anche l'attenzione sull'imballaggio, si inseriscono eventuali principi nuovi, si inseriscono nuovi produttori, si propongono al gruppo, la stessa riunione si ritirano anche i prodotti non deperibili. Non è così. Fatico 10 ore al giorno per un lavoro che non sopporto. Non sei tenuto a farlo. E poi chi ha imposto queste regole? Io so solo, Avril, che voglio sentire le cose. Sentirle veramente. Che te ne pare come ambizione? Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24, vi voglio in diretta. Oggi avete sentito la storia di Davide, 25 anni, che fa il pastore, una scelta in controtendenza, ha lasciato molte cose per fare questa vita, molte cose che normalmente vengono ritenute importanti, la vita in città, l'automobile, insomma tutta una serie di cose. Voi siete sicuri che la vostra è la strada giusta? Cosa serve per essere felici? È un po' difficile oggi, è un po' la domanda delle 100 pistole. Luigi ci chiama da Rieti, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi fatto partecipare. Io volevo soltanto portare un mio piccolo contributo. Sono un piccolo imprenditore che in questo momento giustamente sta soffrendo come tutti di un calo del lavoro, e io stamattina mi sono svegliato comunque alle 7 per fare dei piccoli lavori, e sono felice di averli potuto fare, perché anche se ho tolto del tempo alla mia famiglia, però magari questo mi garantisce nei prossimi giorni di avere una maggiore serenità. Quindi continuare ad avere il lavoro che si aveva prima è già oggi un elemento per essere felici. È impossibile, quindi io dico che bisogna comunque riadattarci, reinventarci, se serve di lavorare di domenica, di sera. Purtroppo chi ha un'attività non ha scelte, non è facile poter contare sul personale, allora mi rimbocco le maniche la domenica mattina e vado a fare le cose. Che attività ha lei? Di che cosa si occupa? Io costruisco camini. Caminetti. Va bene, grazie. Come va il mercato dei camini di questo periodo? A parte che è d'estate, insomma. Allora, il mercato dei camini è fermo, come sono ferme tante altre cose. Noi abbiamo avuto una flessione oltre il 50%, sì. E quindi bisogna ridimensionare tutto. Si ripartirà. Speriamo che riparta. Grazie Luigi per la sua bella telefonata. E insomma, che cosa serve? Che cosa invece non serve per essere felici, insomma, sereni? Per esempio, noi abbiamo chiesto a Davide, il nostro pastore 25 anni, che cosa aveva meno mancanza: delle code in automobile, dello stress, del telefonino, della giacca e cravatta, insomma, una vita decisamente all'aria aperta la sua. Jenny ci chiama da Udine, 800 24 00 24. Cosa serve per essere felici? Domandona. Buongiorno Jenny. Salve a tutti, buona domenica a tutti. Sì. Ma niente, qual è la sua risposta? Semplicemente così agganciarmi a Davide, che sì. Io sinceramente ammiro queste soluzioni e queste decisioni, insomma, molto azzardate. E la cosa triste, secondo me, è che in Italia proprio queste cose non vengono valorizzate. Mentre io, siccome abito sul confine dell'Austria, ogni tanto mi faccio la scappatella dall'altra parte del confine e vedo un sacco di giovani che lavorano la terra, e sono cose che secondo me andrebbero valorizzate in Italia, perché abbiamo una terra meravigliosa che è molto fertile e ci dà molto, ed è tutto abbandonato, lasciato. Sembra che in Italia appunto fare il contadino, il pastore sia una cosa che non va fatta, che non... Mentre vedo, anche ogni tanto vado in Inghilterra, c'è il contadino, è veramente il lord, quello tenuto in considerazione, mentre qua in Italia sì, grazie Jenny, c'è, di marziani. C'è una questione anche di mentalità, è vero, molti lavori umili o lavori all'aria aperta o lavori che non siano da carriera cittadina, giacca e cravatta, sono stati considerati poco considerati in passato e forse adesso proprio anche grazie alla crisi magari li riscopriamo ed è una cosa positiva. Grazie Jenny. 800 24 00 24, cosa serve per essere felici? Tra poco però il prossimo ospite. Abbiamo scelto questa canzone Jealous Rock, solo una delle tante e forse una delle prime che hanno messo in collegamento la musica con la vita in carcere, celebre l'interpretazione nel film I Blues Brothers alla fine del film, poi ci sono i concerti nelle galere americane di Johnny Cash, insomma qua oggi invece parliamo però di carcere e arte, perché sta entrando nel vivo un progetto a Roma, progetto RAS, recupero ambientale e sociale. I detenuti di Rebibbia sono stati formati adesso impegnati per operare nei luoghi d'arte, a cominciare dai Fori Imperiali. Ne parliamo con Umberto Broccoli, sovrintendente dei beni culturali di Roma Capitale. Buongiorno. Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Buongiorno. Una voce nota, perché io lo sento sempre alla radio, Radio 1, con parole mie, questo lo volevo dire. Anche io, però è reciproco, quindi ci guardiamo allo specchio, radiofonico. Però adesso parliamo anche agli ascoltatori, certo. In questa veste come sovrintendente. Un'idea bellissima questa, io appena l'ho vista, devo dire la verità, non ero a conoscenza di un progetto che viene da lontano. Appunto, però per realizzare idee bellissime ci vuole sempre troppo tempo forse in Italia. Quanto tempo è che questo progetto sta andando avanti? Che adesso Ringraziando da poco, per cui abbiamo chiuso i tempi molto, è cominciato quasi sperimentale, quasi in maniera avventurosa e avventuristica nel 2009, poi nel 2010 avevamo l'amministrazione penitenziaria ci mise a disposizione 5 detenuti che, detto tra me e te, ma anche con gli ascoltatori di Radio 24, lavoravano per 50, pulivano tutto, mettevano tutto a posto, eccetera eccetera. È diventato talmente tanto importante questo progetto che in quel tempo era finanziato da Roma Capitale, quindi dal Comune di Roma, quindi c'erano i finanziamenti erano interni nostri, che invece poi l'amministrazione penitenziaria, la Direzione Generale dei Detenuti, è intervenuta con i finanziamenti e ha messo a disposizione di Roma Capitale, quindi dei Fori Imperiali, del Largo Argentina, Sant'Omo Bono, 33 aree, 18 detenuti, che sono incredibilmente efficienti e soprattutto lavorano nel bello. E soprattutto lavorano per recuperare sostanzialmente un percorso per una vita che appunto ci auguriamo prima possibile torni certo. A io scherzando così, che quando abbiamo messo la notizia su Facebook ho detto largo ai tecnici, siccome loro sanno come si ripuliscono tasche, borse e portafogli, allora potranno ripulire anche i Fori Imperiali. Ma tornando in me stesso, cioè tornando un po' più seriamente parlando, Broccoli, che impatto può avere un'attività come questa, Umberto, sui detenuti? Perché insomma l'utilità ai fini dei luoghi d'arte la capiamo, opereranno, lavoreranno e faranno un servizio. Per loro invece, per i detenuti, secondo te che impatto può avere? Ma innanzitutto il fatto che tu abbia scherzato, è male che si scherza ancora, perché altrimenti ci prendiamo troppo sul serio, il fatto di Facebook, di mettere quella noticina su Facebook. Io ti posso dare dei dati, perché al di là delle campagne così, di annunci, lo scorso anno e l'anno precedente questi detenuti, che poi sono andati in libertà, molti di loro si sono laureati, cioè quindi hanno, oltre a pulire materialmente, quindi a dare una mano per il bello, hanno anche lavorato su loro stessi. Cioè diventa l'inizio di un percorso completamente nuovo. È certo, infatti quando è venuto il ministro Severino a inaugurare assieme al sindaco Alemanno, che una settimana fa abbiamo dato il via a questa cosa, si è resi conto tutti dell'impatto. Innanzitutto pratico, perché lì si pulisce, sociale, perché si riabilitano queste persone, learning by doing, quindi imparare lavorando, terzo perché ci sono dei risultati, ripeto, molti di loro negli anni precedenti hanno addirittura chiuso il loro percorso di laurea, che è una cosa fantastica secondo me, perché senza enfasi, io non amo la retorica, è una cosa importante, perché vuol dire si possa mettere a disposizione energie ma entusiasmo. Oggi manca molto l'entusiasmo, la passione, mettere passione nelle cose. Io vorrei veramente far vedere agli ascoltatori come questi signori, quando gli si dà in mano gli strumenti di pulizia, in pochissimo tempo, guidati dai tecnici della sovrintendenza, perché naturalmente non è come pulire casa mia o casa tua, certo. No? Lì ci sono, bisogna, è un po' più complesso. Appunto. E quindi sono i nostri tecnici che sono a disposizione. Quindi ecco. Danno loro, hanno fatto un corso di formazione con noi, sì. per sapere dove, come e come intervenire. Insomma, un progetto, ripeto, bellissimo. Io so di una esperienza a Pescara dove i detenuti partecipano alla manutenzione dei campi sportivi, però ecco, so che tu hai già tantissime cose da fare, Umberto, però sarebbe bello che un progetto del genere diventasse, insomma, un progetto pilota nazionale per coinvolgere anche altre città, altri detenuti, perché la parola chiave, la passione, credo anch'io sia importantissima, si accende, è uno dei modi anche per uscire dal pantano della crisi. Però restando invece a questo progetto, Quanto durerà? Quanto andrà avanti questo progetto? Questo progetto andrà avanti praticamente fino a tutta l'estate, ma sarà rifinanziato, quindi è un progetto oramai in termini permanenti sostanzialmente. E quello che stavi dicendo poco sì. fa è una realtà, perché il ministro Severino vuole esportare su scala nazionale questo esperimento fatto da noi, da Roma Capitale. Benissimo, grazie. Allora noi insomma vi verremo a trovare con la radio per vedere come sta andando ancora questo bellissimo progetto. Grazie Umberto Broccoli. Grazie Alessio, grazie Radio 24. Sovrintendente dei beni culturali di Roma Capitale, un'iniziativa, abbiamo detto, bellissima, che coinvolge il carcere romano di Rebibbia. E così però alcuni nostri ascoltatori intervenivano con la loro ricetta per salvare l'Italia in un minuto, proprio a proposito dei detenuti. Volevo lasciare questo messaggio per coloro che sono con sentenza definitiva nelle nostre carceri, facendo fare un ISE superiore a 30, 40, 50 mila euro, perché non devono pagare il soggiorno in carcere? Ripeto, con sentenza definitiva. Chi può si paga il soggiorno in carcere, che lo Stato definirà come tariffa giornaliera. Questo è ciò che io propongo. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 12.47, ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24, ancora una telefonata in diretta o due, però brevemente, perché tra poco avremo il nostro prossimo ospite, che invece abbiamo chiesto a lungo che cosa serve, cosa non serve per essere felici. Lui ha una risposta qualificata, il nostro prossimo ospite. Tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Intanto abbiamo Alfonso che ci chiama da Napoli, buongiorno Alfonso. Buongiorno. Nulla, ho apprezzato sì. moltissimo l'intervento del sovrintendente di Roma, sì. che è un'azione di solidarietà molto interessante, però io per esempio sono un conservatore dei beni culturali, uno storico dell'arte, ho messo tantissima passione negli ultimi 10 anni in questo settore, sono andato a lavorare all'estero, sono ritornato in Italia per pubblicare un libro. Però alla fine per tirare a campare faccio il pasticcere. No, scusi un attimo, cioè, lei è andato all'estero, ha pubblicato addirittura un libro, lavora nel mondo delle belle arti e fa il pasticcere adesso? No, perché sono ritornato poi in Italia, sì. sono ritornato in Italia dopo un anno di praticamente di vuoto, l'unica sì. attività che ho trovato è riscoprire quella di famiglia, cioè quindi sono... Ah, lei aveva un'attività commerciale di famiglia e l'ha rilevata? In realtà era stata chiusa per la crisi. Poi, trovandomi disoccupato, ho iniziato a fare dolci. Ma lei adesso è più o meno, non dico felice, ma insomma contento di sé adesso o lo era di più prima? Ho uno stipendio. Ho uno stipendio, però per esempio le faccio un piccolissimo esempio, sì. solo la regione Campania ha milioni di euro di fondi che l'Unione Europea gli ha dato, noi spendiamo appena il 6%, quasi nulla di quello che ci danno, lei immagini se solo la regione Campania, ma così come la regione Lazio, potesse spendere tutti i fondi che ha a disposizione per i beni culturali. Vabbè, quante cose si potrebbero fare, compreso lei, potrebbe lavorare, di formazione, mi scusi Alfonso, cos'è, ha studiato? Architetto? No, sono laureato in conservazione dei beni culturali e poi in storia dell'arte. quindi storico dell'arte. E vabbè, sì, insomma, anche la sua è una storia, Alfonso, storico dell'arte che fa il pasticcere a Napoli, adesso è contento, però se si sblocca qualcuno di questi fondi della campagna, magari torna a fare lo storico dell'arte. Grazie Alfonso, grazie per la sua testimonianza, bellissima, buona giornata. 800 24 00 24, ogni settimana vi chiediamo di raccontarci storie così. Tra poco però il nostro misterioso ospite. Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità è restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità. Vabbè, non potevamo esimerci, no? È ovvio. Del resto Albano e Romina erano l'immagine stessa della felicità, la felicità fatta dalle piccole cose, dai valori semplici di una volta. Poi sappiamo come è andata a finire, ma questo non importa, è un'altra storia. E allora tiriamo un po' le fila del nostro discorso sulla felicità con il nostro caro gradito ospite, il professor Enrico Cheli, psicologo, sociologo, direttore del progetto Corem Comunicazione, Emozioni e Consapevolezza all'Università di Siena. Buongiorno. Buongiorno a voi. Nelle vesti, tra l'altro, di presidente della Fondazione Oliversity, che insieme alle Università di Siena e Milano Bicocca organizza un corso proprio per la felicità. Tra poco ci parlerà, anzi facciamo così, ci parli prima del corso, poi però le chiedo anche a lei, professore, di cos'è la felicità secondo lei. Ma partiamo da questo corso che ci incuriosisce un bel po', insomma un corso per essere felici. Sì, è un corso sperimentale che non solo si propone di aiutare le persone a essere più felici, ma che si propone anche di misurare scientificamente i mutamenti che avverranno in queste persone durante e dopo il corso. Quindi è un progetto pilota assolutamente nuovo per il nostro paese, anche se all'Università di Siena con la mia equipe da oltre 10 anni ci occupiamo di questi temi, però è la prima volta che avviamo proprio un protocollo di ricerca completo per verificare come funziona e quanto funziona. Il corso che è iniziato ieri, se sono ben informato, se ricordo bene, terminerà tra qualche mese, appunto ci sarà anche questo monitoraggio delle Università di Siena e Milano Bicocca. Io so che lei non può rivelare alcuni aspetti del corso per una questione legata al gruppo di controllo di questo corso che ci sarà e che quindi se viene a sapere prima di certe cose poi saltano un po' i meccanismi. Però ci parli un po' di questo metodo, credo questo ce lo possa un po' svelare, no? Certamente, è un metodo che noi abbiamo già applicato e collaudato, come dicevo prima, da vari anni nei nostri master, corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca, però che abbiamo semplificato, ridotto all'osso per poter proporre anche a persone, diciamo non necessariamente con una formazione universitaria, persone che semplicemente vogliono diventare un po' più felici e che sono disposte a dedicare una parte del loro tempo quotidiano ad alcuni semplici esercizi che noi appunto insegniamo durante la fase iniziale di questo corso, che prevede una giornata di formazione, dopodiché le persone a casa svolgeranno questi semplici esercizi per circa un quarto d'ora al giorno mediamente. Ammetterà, scusi professore se la interrompo, che gli esercizi per essere felici sono una cosa così che fa anche sorridere, surreale, perché uno dice come, devo lavorare, e invece sì, perché lei ci sta dicendo che essere felici non è una cosa semplice, bisogna impegnarci, bisogna trovare la strada, e voi dite 15 minuti di esercizio al giorno, che esercizio è non ce lo può rivelare naturalmente. Diciamo non nello specifico, però posso dire che su che cosa lavorano alcuni di questi esercizi. Per esempio lavorano su alcune idee erronee che le persone hanno riguardo a che cosa sia la felicità, e quindi cerchiamo di portare consapevolezza sulle loro convinzioni relativamente alla felicità. Molto spesso la felicità è più vicina di quanto si pensi, ma le persone hanno idee erronee al riguardo e non la vedono anche se ci passano accanto. Faccio un esempio, vediamo se ho capito. Noi abbiamo parlato, non so se ci ha seguito proprio fin dall'inizio, abbiamo parlato con questo ragazzo di 25 anni, Davide, che fa il pastore in Veneto. Ecco, lui per esempio, forse contrariamente ad altri suoi coetanei che cercano la felicità in qualcosa di molto lontano, forse si è accorto che aveva a portata di mano, magari una scelta non facile, però qualcosa che poteva realizzare da subito e che poteva renderlo più felice. Ho capito bene? Potrebbe essere così un po'? Sì, diciamo, sicuramente questo è uno degli aspetti su cui noi lavoriamo. Ci sono idee che noi diamo per scontate sulla felicità, per esempio che la felicità dipenda dalla quantità di averi, di possesso che noi abbiamo e che invece non corrispondono al vero, è stato provato da molte ricerche, da esperienze cliniche, quindi noi portiamo consapevolezza, aiutiamo le persone a portare consapevolezza su questo in modo da ridimensionare poi la loro visione del mondo, da guardare il mondo e la propria vita con occhi diversi e di conseguenza cogliere le opportunità che esistono e che non sono necessariamente opportunità eclatanti, ma sono piccole cose che possono fare la differenza. Lei, professore, si trova, il professor Enrico Kelly, si trova in linea con quello che propone, cioè per lei la felicità è questo. Io ricordo una bella frase, la voglio citare così, di Guccini, in una canzone che diceva: non crediate che la felicità sia l'anagramma di facilità. Mi sembra che anche lei sia per una teoria impegnativa di felicità. Cos'è per lei la felicità? Sì e no, nel senso che la felicità in realtà è molto semplice, ma siccome la nostra cultura è l'antitesi della felicità, quindi dobbiamo fare un lavoro complicato per tornare al semplice, ecco. Questa è un po' la mia risposta. E va bene, allora per chi invece vuole andare oltre, l'appuntamento è con i corsi della Fondazione Oliversi, del professor Enrico Kelly dell'Università di Siena. Grazie a tutti per essere stati con noi, Laura Vanossi per l'assistenza in diretta, Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanide e Andrea Piana che ha scritto con me il programma. Grazie, buona giornata, buona domenica.